siamo qua perché abbiamo ritenuto utile e opportuno porre all'attenzione della stampa questo evento che ci sta particolarmente a cuore e di cui siamo state co-promotrici come Associazione Orlando insieme all'Italian Virginia Woolf Society. L'evento è Viva Virginia, si svolgerà domenica 28 marzo alle 17. Ovviamente sarà un evento online perché così impongono, come dire, le condizioni, porterà il segno di questo tempo. È un evento che nasce per festeggiare, abbiamo voluto usare proprio la parola festa, gli 80 anni dalla scomparsa di Virginia, ma ciò che festeggiamo ovviamente è Virginia e la festeggiamo perché lei è viva e presente nelle sensibilità, nei desideri e nei tanti modi che proveremo a dire nelle vite di ciascuno di noi e di ciascuna di noi. Ora io darei la parola a Liliana Rampello per l'Italia Virginia Woolf Society. Questo evento che io ritengo bellissimo, come già si può intuire dal promo che avete messo online, perché sono tantissime le donne e gli uomini che leggono con estrema gioia Virginia Woolf, che la portano in giro con sé e nel mondo e che continuano a raccontare il fatto che Virginia Woolf è davvero viva. Allora, la scelta del 28 marzo, che poteva essere una scelta un po' eccentrica perché è il giorno in cui in realtà Virginia Woolf è scomparsa, indica invece un punto molto importante, ovvero che tutta la vita di Virginia Woolf è stata vera e propria profonda vita e profondo amore per la vita, per cui quel giorno tremendo in cui lei fa questa scelta tragica del suicidio in realtà è qualcosa che noi possiamo tenere distante dalla nostra mente nel momento in cui affrontiamo i suoi libri, i suoi racconti, le sue lettere, i suoi diari, perché lei davvero in ognuna di queste righe ci racconta qualcosa di fondamentale e soprattutto ci racconta appunto questa passione per l'essere, per la creatura vivente, per tutte le creature viventi, la natura, gli animali, è veramente una personalità di profonda gioia. Questa scelta spero che aiuti appunto a ribaltare un po', no, l'ipotesi o l'idea di una Virginia Woolf malinconica, triste, suicida, perché in realtà appunto questa è stata veramente la cosa che lei ha portato nel nostro mondo. Tra l'altro la nostra associazione, così come tutte le associazioni, immagino, è negli anni ha veramente costruito una comunità di amiche, di amici, di studiose, di studiosi, di lettrici comuni e di lettori comuni, come sempre aveva invocato per la propria opera Virginia, e credo che questo sia davvero molto importante, perché l'accesso al suo pensiero e l'accesso anche a una mente estremamente brillante, luminosa e che è di grandissima lungimiranza. La lungimiranza che chiunque di noi può leggere in una stanza tutta per sé o nelle tre Guinea, i due saggi politici più importanti che hanno guidato, sono stati all'origine anche di molti pensieri femminili e femministi dagli anni 70 in poi, cioè, quindi lei ha veramente detto qualcosa con grande anticipo ed è per questo estremamente nostra contemporanea. Quindi penso che questa giornata aiuterà tutti e tutte ad avvicinarsi a lei con amore e con curiosità. Grazie Liliana. Adesso passerei la parola ad Elena Musiani che ci illustrerà brevemente Flash, il progetto dentro cui è ospitato l'evento Viva Virginia per l'Associazione Orlando. Con piacere come Associazione Orlando abbiamo aderito a questa iniziativa e abbiamo voluto farlo nell'ambito appunto di questo progetto Flash che da un anno stiamo portando avanti, ma Samantha insieme a Elena Lolli, Anna Zani, Antonia Ciavarella e a tutte le socie dell'associazione, che è un progetto che nasce dall'idea di, il sottotitolo è Altri punti di avvistamento surreale, una sfida che ci siamo poste noi dell'associazione partendo in questo caso e la scelta del nome del progetto è anche in questo caso richiama, così come la scelta del nome della nostra associazione, anche quello di questo progetto parte da un romanzo di Virginia Woolf, in questo caso da Flash, un romanzo che ha come protagonista il cane Flash. L'idea è stata proprio quella di avere uno sguardo nuovo sul presente, uno sguardo diverso, un punto di vista non consueto sulla letteratura, ma anche le sezioni che riguardano più nello specifico i documenti ad esempio dell'archivio, e quindi fare leggere, fare conoscere, fare attraversare questi documenti e questa è la storia delle donne e dei femminismi attraverso questi nuovi sguardi che passano appunto attraverso la lettura, attraverso le voci, attraverso la scrittura, un po' nell'ottica di quanto Virginia Woolf ci ha insegnato. Per questo con entusiasmo abbiamo accettato di partecipare non solo come associazione, ma proprio nell'ambito di questo progetto Flash all'iniziativa Viva Virginia. L'idea è proprio quella di attraversare stanze nuove e visioni nuove sul presente e sul passato, unire la memoria al presente e consentire di capire quanto il passato, quanto le figure di donne, prima fra tutte ovviamente Virginia Woolf, e le scrittrici, le donne meno conosciute che però hanno lasciato segnali e simboli attraverso la loro scrittura nelle carte del nostro archivio, quanto queste memorie, queste voci, queste carte, questi specchi di un passato sul presente diventino quanto più necessari in un momento in cui da queste carte, da questa storia, da queste voci, da questi dialoghi possiamo ricavare nuove idee, nuove speranze, nuova forza. Un'ultima piccola cosa che hai già ricordato tu, Samantha, sarà una festa, quindi ci divertiremo molto tutti assieme. Questo è molto importante.